24 mattino. Le 8 e 18 minuti, ben ritrovati a 24 mattino con l'economia. Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti. Deborah. Ciao. Studi di settore, oggi parliamo di questo. Sì, tra l'altro poi sarebbe anche interessante collegarlo questo argomento al tema che farai tu più tardi. Gli stipendi dei parlamentari, oddio, e la loro denuncia redditi. Dei redditi. Sì, esatto. C'è gente che ha dichiarato 2000 euro. Ma sì, insomma, molto interessante. Chissà, anzi, 215. In che studio di settore sono inquadrati questi professionisti? Buongiorno a Tonino Morina, dottore commercialista, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore. A lei Deborah, buongiorno a tutti. Adesso spiego ai nostri ascoltatori perché l'abbiamo interpellata. La stagione della dichiarazione dei redditi, lo sappiamo tutti, ahimè, è nel vivo. Ad esempio, i lavoratori dipendenti hanno ricevuto in questi giorni, in queste settimane, i CUD, la certificazione degli stipendi, dei redditi percepiti lo scorso anno, e adesso tutti stanno mettendo insieme la documentazione per certificare anche le spese sostenute lo scorso anno, in modo tale da poter avere qualche risparmio in termini appunto di tasse da versare. All'appuntamento annuale con il fisco non andiamo mai troppo volentieri, però nonostante il clima generale ci sono buone notizie per i lavoratori autonomi colpiti dalla crisi, perché il fisco potrebbe essere più leggero. Entro la fine del mese infatti si concluderà il processo di revisione di oltre 200 studi di settore che riguardano proprio i comparti più esposti alla recessione globale. È un'operazione che è partita a dicembre, è regolamentata dal decreto anticrisi ed è un'operazione che vuole definire nuovi parametri di ricavo in cui si terrà conto dell'impatto della crisi economica sui singoli settori produttivi. Allora Tonino Morina, intanto vogliamo spiegare in termini semplici in cosa consiste uno studio di settore? Lo studio di settore praticamente sono degli strumenti di controllo induttivo dei cosiddetti esercenti delle libere attività, quindi imprese e professionisti sostanzialmente. Grosso modo sono oltre 4 milioni le imprese e professionisti che sono controllati con questo strumento induttivo in base ad alcuni parametri, anche ci sono i parametri ovviamente che sono previsti, però ripeto, quello che è attualmente più dirimente, più dirompente è quello dello studio di settore. Studio di settore che misura in base ai metri quadrati, alla merce venduta, ai beni strumentali posseduti, il luogo dell'attività e quant'altro, il ricavo presunto o il compenso presunto se si tratta di professionisti, quindi del contribuente. Naturalmente lo studio di settore non significa la panacea di tutti i mali, perché in effetti negli ultimi anni lo studio alcune volte ha dato i numeri in un certo senso, perché praticamente alcuni contribuenti che non erano in linea risultavano in linea, altri al contrario che magari avevano dichiarato pochissimo potevano risultare congrui, perché così è chiamato come termine tecnico lo studio di settore, congrui e quindi non controllabili. Comunque ora, come hai già accennato tu, entro fine marzo ci saranno alcune modifiche, ma attenzione, non solo gli studi di settore, come ieri ha detto sul Sole 24 Ore, ha scritto sul Sole 24 Ore, c'è stato anche l'asterisco molto puntuale del direttore De Bortoli, c'è il redditometro, cioè la ricchezza, il fisco alla caccia dei finti poveri, così come ha detto ieri il direttore De Bortoli sul suo asterisco sul Sole 24 Ore, e quindi studi di settore e redditometro sono le mosse del fisco per lottare all'evasione. Ecco Tonino, abbiamo 2 minuti di tempo, soffermiamoci per un attimo sui correttivi che il governo intende apportare agli studi di settori, correttivi che si muoveranno come andranno a valutare qual è l'impatto fra i lavoratori autonomi della crisi? Ma questi correttivi praticamente revisione che, come è stato detto, riguarderà 206 strumenti attualmente in vigore, e quindi correttivi che saranno considerati per esempio il settore tessile, abbigliamento e calzaturificio, una sequenza di elementi che praticamente dovrebbero ridurre in maniera considerevole quello che è successo negli ultimi anni, perché praticamente la crisi economica che c'è attualmente in corso per alcuni settori significa che non si possono applicare gli studi di settore così come sono stati applicati negli anni precedenti. Questo discorso naturalmente va visto e va calibrato caso per caso, contribuente per contribuente. Rimane fermo un altro aspetto da parte dello studio di settore. Il contribuente può sempre dimostrare, quando fa il suo dovere con la contabilità, con la documentazione, che naturalmente non ha evaso nulla, ma lo deve dimostrare e lo può fare anche supportandolo, per esempio, dal controllo bancario, nel senso dimostrando che in banca, esempio classico che spesse volte gli uffici magari non tengono in considerazione, se uno è monomandatario, che significa se uno lavora solo per un'impresa o se lavora solo per un professionista, naturalmente il suo compenso certificato al 100% dal professionista o dall'imprenditore per il quale lavora, non c'è studio di settore che possa tenere, perché in quel caso ci sono tanti casi in Italia di questo tenore, può dimostrare con i suoi redditi certi che lo studio di settore non ha alcuna influenza sul suo reddito o sui suoi compensi o ricavi, perché praticamente non devono essere completamente gonfiati da studi o da altre misure o da altre, diciamo, accertamenti dal fisco. Io ringrazio Tonino Morina per essere stato con noi, poi magari torneremo più avanti sulla revisione degli studi di settori che farà leva, non abbiamo avuto modo di spiegarlo, su 4 correttivi di settore, anche relativamente alle materie prime, un correttivo individuale, quello territoriale, perché può essere anche che un negozio al sud potrebbe non godere dello sconto riconosciuto allo stesso negozio appartenente allo stesso settore al nord. Non ci riusciamo questa mattina, io ritorno ad Alessandro Milan. E allora torneremo sì, magari su questo tema. Sì, sì, tu certo. Alle 12 poi torni. Alle 12 mi tieni torno... sempre in sospeso. Alle 12. Tremonti Bond oggi. Tremonti Bond. Bene. Sono le 8:31 minuti, ben ritrovati, uno sguardo alle ultime notizie. Il piano del ministro al tesoro americano Geithner per salvare le banche fa volare le borse. Wall Street guadagna il 7,1%, azzerando quasi completamente la perdita dall'inizio dell'anno. In Europa ieri il listino migliore è stato Piazza Affari con un più 5,8%. Dure critiche del presidente dei Vescovi Italiani Angelo Bagnasco a media e politici. Le parole del Papa sull'AIDS sono state strumentalizzate, ha detto il presidente della CEI. Non accetteremo altre offese. Bagnasco ha chiesto anche che si arrivi a una legge sul testamento biologico senza lungaggini o tentennamenti. E proprio da oggi al Senato si inizia a votare sul testamento biologico. Voto finale previsto per giovedì. Lo stupro al parco della Caffarella. Hanno confessato di essere autori della violenza i due rumeni arrestati venerdì scorso e incastrati dalla prova del DNA. Per quel reato erano stati inizialmente accusati altri due rumeni, sui quali comunque si continua a indagare, ma uno dei due, Carol Racci, ieri è stato scarcerato. Infine una notizia di ciclismo: è in dubbio la partecipazione di Lance Armstrong al Giro d'Italia. L'americano si è fratturato in una caduta alla clavicola ieri e sarà operato nei prossimi giorni. È il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore, come di consueto a quest'ora, dedicato oggi proprio al piano del ministro al tesoro Geithner. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Le borse hanno reagito bene ieri al piano del ministro del tesoro americano Geithner per il riacquisto dei titoli tossici posseduti dalle banche. Si impiegheranno i soldi pubblici ma anche dei capitali privati. Finora ogni tentativo era andato a vuoto, il mercato non aveva creduto a nessun annuncio, a nessuna cifra astronomica. Questa volta Wall Street, che ha recuperato il 20% dai minimi dell'anno, sembra ben disposta. Vedremo, al di là delle prese di beneficio di un mercato che rimane volatile e fragile, se le aspettative cominceranno ad invertirsi oppure no. Un modesto segnale di ripresa arriva anche dal settore edilizio americano, che è stato, con il crollo dei valori, la causa della grande crisi. Il piano Geithner consente ai privati coinvolti di rischiare poco e le eventuali perdite ricadranno ancora una volta sul contribuente. E forse chiede aiuto a coloro che il disastro hanno contribuito a causarlo. Del resto si calcola che vi siano soltanto una ventina di persone al mondo che sanno esattamente che cosa nascondano questi titoli tossici. E forse, come per debellare i virus dei computer, si sta chiedendo aiuto agli stessi hacker, pagandoli. Buona giornata. Grazie, buona giornata, direttore. Ci sentiamo domani alla solita ora, ovviamente. 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi. Quella che vi raccontiamo ora è una storia, qualcuno dice una storiaccia all'italiana, una storia da diritto storto, titolava un paio di giorni fa La Stampa. Allora, partiamo dal 1994, quando la legge Galli stabilisce sostanzialmente, tra le tante cose, che nella nostra bolletta dell'acqua, quella che paghiamo, per maggiore trasparenza dovranno comparire tre voci, una delle quali è il canone di depurazione. Tutto per chiarezza, per far capire ai cittadini che cosa pagano e perché. La domanda è semplice, ma laddove in quei comuni in cui il depuratore non c'è, è giusto pagare il canone di depurazione? Nel 2008 la Corte Costituzionale ha deciso di no, e dunque niente depuratore, niente bolletta. Dovrebbe essere abbastanza semplice. Come si sa, in Italia le cose non sono sempre così lineari, anche perché a quel punto i comuni, in base a questa sentenza della Corte Costituzionale, dovevano restituire 3 miliardi di euro ai cittadini, 3 miliardi di euro sono tanti, indebitamente prelevati per canone di depurazione a 14 milioni di italiani che il depuratore non l'hanno mai visto neanche col binocolo nel loro comune. Ma andiamo con ordine. Io saluto l'avvocato Alessandro Indipendente, buongiorno. Buongiorno. Dico buongiorno. Una storiaccia all'italiana, perché ovviamente c'è un finale, perché questi 3 miliardi di euro gli italiani, diciamolo subito, mettetevi il cuore in pace, non li vedrete. Ecco. Esatto. Avvocato Indipendente, lei, la storia inizia da lei, nel senso che madre e figlia di Gragnano, in provincia di Napoli, dove peraltro lei abita, si rivolgono a lei dicendo: ma io il depuratore qua a Gragnano non ce l'abbiamo, perché pago da anni il canone di depurazione? E lei è quello che ha portato fino alla Corte Costituzionale il caso, è così? Sì, sì. Tutto nasce un po' dalla rabbia di queste due cittadine, che poi insomma si è dilagata nel paese, perché si vedevano addebitate in bolletta un costo che era del tutto privo di giustificazione, visto che il servizio di depurazione a Gragnano non esisteva. Quindi su istanza e su mandato di queste cittadine ho prodotto una serie di ricorsi al giudice di pace proprio per dichiarare come non dovuta la quota di depurazione del servizio idrico integrato. E il giudice di pace, tuttavia, essendo vincolato all'applicazione della legge, non poteva far altro che portare la questione innanzi alla Corte Costituzionale, sicché mi sono poi apprestato a produrre un'eccezione di illegittimità costituzionale, perché la legge palesemente violava l'articolo 3 della Costituzione, che è il principio di uguaglianza dei cittadini. E che è stata accolta, cioè la Corte Costituzionale poi ha dato ragione. Che cosa succede? Che io, tra l'altro, il Sole 24 Ore il 19 gennaio ha pubblicato, alla luce di quella sentenza della Corte Costituzionale, ciò che i comuni avrebbero dovuto, ne ripeto ancora, avrebbero dovuto, perché c'è un brutto finale, restituire ai cittadini. Ogni anno, per esempio, Palermo dovrebbe restituire 8.132.000 euro all'anno, fate dal 94 fino al 2008, moltiplicate dunque per tutti gli anni. Napoli 3 milioni di euro l'anno, Genova 5 milioni di euro l'anno, Catania 4 milioni di euro l'anno, perché ci sono molti cittadini di questi comuni, e poi ci sono tutti gli altri comuni, che non hanno il depuratore. Ora, che cosa ha fatto, perché legge un paese dal diritto storto, in Parlamento, in una legge così sull'ambiente, è stato infilato un comma che vorrei scoprire anche la manina che l'ha infilato, ma chissà, mi sa che non la scopriremo mai, che sostanzialmente dice anche laddove non c'è un depuratore, ma basta che ci sia nel catasto il progetto di fare un depuratore più o meno in un tempo futuro, questi comuni non devono restituire i soldi. Avvocato, è così. Diciamo che il Parlamento questa volta è veramente gabbato, nel senso proprio del termine, il cittadino, perché in tal modo si è condonata anche l'inerzia di tutte quelle pubbliche amministrazioni, di quelle società private che gestiscono il servizio idrico, nella redazione del progetto di costruzione del depuratore, perché se magari per un progetto ci voleva 2 anni per elaborarlo, e quindi i cittadini dovevano pagare limitatamente a quei 2 anni, oggi invece con questa legge addirittura se un comune o una società privata che gestisce il servizio idrico ha impiegato 10 anni, ecco, adesso il cittadino si trova costretto a pagare per tutti questi anni, e tal modo salvaguardando i poteri forti e quindi all'inefficienza dei comuni e di questa società privata. Sì, sostanzialmente il Parlamento, invece che certificare a dire cari cittadini avete diritto a questi soldi indietro, insomma ha sanato questa falla, no? Scoperta dalla Corte Costituzionale. Esatto. Tra l'altro, avvocato, mi lasci salutare, perché c'è chi dal punto di vista amministrativo, come sindaco, si è mosso a dire invece no, questi soldi ai cittadini spettano e io li restituisco indietro. Il sindaco di Aci Castello, provincia di Catania, che è tra l'altro anche un avvocato, Silvestra Raimondo. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. O avvocato, buongiorno. So che ad Aci Castello, insomma, in questi anni i cittadini erano molto arrabbiati a dire ce li dovete ridare questi canoni di depurazione che abbiamo pagato per qualcosa che non c'era. Sì, considerate che qui siamo sulla riviera dei Ciclopi, abbiamo ancora reflui a mare e non abbiamo un impianto di depurazione, abbiamo soltanto, chiaramente è un progetto ormai definitivo del collettore di salvaguardia, ma la depurazione vera e propria non c'era. E lei ha deciso di dire, cari cittadini, visto che sono stati anche molto pressanti in questi anni, ve li ridò quei soldi, perché effettivamente non ci spettavano, non sono stati presi indebitamente. Guardi, all'indomani della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, data la retroattività, immediatamente ci siamo apprestati a informare i cittadini con manifesti murali e per appunto presentare le domande di rimborso. Quindi noi avevamo già iniziato. Alla luce della nuova normativa, proprio ieri mattina ci siamo riuniti anche alla presenza del lato e del rappresentante anche di chi gestisce il nostro acquedotto e i nostri funzionari, e praticamente abbiamo interpretato, credo, in modo preciso la norma. La norma parla di canoni di depurazione che sono stati appunto finalizzati o in un progetto, e noi il progetto chiaramente l'abbiamo. Ecco, sindaco, ecco, questo è un punto fondamentale. Voi ce l'avete il progetto, quindi la nuova legge vi salverebbe, voi ce l'avete un progetto. Allora, guardi, noi abbiamo un progetto di collettore di salvaguardia, 21 milioni però coinvolti 4 comuni, la provincia, la regione Sicilia e il ministero. Ma il comune di Aci Castello, ecco, è questa la particolarità, il comune di Aci Castello ha stanziato 1.400.000 euro, ma di fondi propri, non di canone e depurazione. Ecco, credo che questo sia il punto, perché se obiettivamente all'interno del progetto è stato stanziato un nostro, è un fondo comunale, era un mutuo che noi avevamo acceso proprio per la condotta, e quindi non abbiamo stanziato il canone di depurazione dei cittadini versato. Quindi quello che ha versato quale canone di depurazione da parte del cittadino è in un fondo vincolato. E viene restituito. Crede, sindaco, crede che abbiano fatto così tutti i vari comuni? Cioè i comuni che dovrebbero restituire? Cioè questo intervento del Parlamento, invece di dire c'è una sentenza della Corte Costituzionale che dice cari cittadini, vi abbiamo preso negli anni 3 miliardi, io voglio dire la cifra, 3 miliardi di euro in canone di depurazione che non vi dovevamo prendere, perché il diritto, la Corte Costituzionale ha stabilito così. Invece di ridarveli, sapete che c'è? Facciamo una leggina che dice che anche se uno non ha un depuratore ma ha in progetto di costruirlo, noi non ve li ridiamo. Ecco, sindaco, lei è anche avvocato. No, io sì, sono avvocato. Che dobbiamo pensare? Se la norma è questa, avrà certamente un senso che soltanto il legislatore sa. Quello di salvare i comuni, che sennò sarebbero stati sottoposti a un salasso. Obiettivamente questo canone depurazione serve comunque alla manutenzione oppure alla progettazione, alla costruzione di depuratori. Quindi il fine del canone versato dai cittadini è questo. Però ogni comune immediatamente, credo che sia doveroso, immediatamente faccia però un controllo. Ecco, se obiettivamente alle opere idrauliche oppure fognarie in progetto è stata destinata una somma, ecco, magari come succede da noi, cioè un fondo proprio, e allora chiaramente il canone che è stato già versato ed è in fondo vincolato deve essere restituito. E quindi ogni comune credo che debba avere la sensibilità e anche di restituirlo, la responsabilità di andare a controllare se i propri canoni sono stati già finalizzati o meno. Sì, avvocato indipendente, lei forse è un po' più pessimista, cioè a dire che l'intervento del Parlamento è stato un intervento, insomma, di una gran sanatoria, come dire, se no dove... Assolutamente. dovevamo restituire 3 miliardi di euro con le casse già disastrate degli enti locali, che succedeva? Sì, sarebbe stato un totale dissesto finanziario, insomma, dei comuni e delle varie società private. Però alla fine il problema è questo, che c'è, che questa norma da sola non serve a nulla, perché in un certo qual modo non permette nemmeno di far evidenziare le responsabilità degli amministratori locali e di queste società private che sino a questo momento hanno gestito il servizio idrico. Ma a me starebbe bene, guardi, se le dicessero questi soldi che sono stati versati ai comuni, almeno adesso si fanno i depuratori in tutta Italia e stiamo tutti tranquilli, almeno si servisse. Chi controlla i controllori, questo è il problema. Cioè, purtroppo la sensibilità di cui parlava il sindaco di Aci Castello non è un sentimento diffuso, soprattutto qui nel meridione. Pertanto si dovrebbe garantire più che altro la certezza del diritto, il cittadino dovrebbe essere soggetto alla certezza delle leggi e non anche all'arbitrio degli amministratori locali, perché molto spesso queste somme vengono distratte per altri scopi e non anche impiegate nella progettazione o comunque nella realizzazione dei depuratori, sono servite anche a pagare gli stipendi agli impiegati delle società. E quindi alla fine, ecco, la domanda è questa: chi controlla i controllori? Intanto, avvocato, lei la sua battaglia, diciamo, l'ha vinta fino alla Corte Costituzionale. Purtroppo si ferma davanti al Parlamento. Che dobbiamo dire? Dobbiamo chiudere così con questa massima, avvocato indipendente? Per forza, perché purtroppo le istituzioni di questi tempi stentano, insomma, a lavorare per il cittadino. Vabbè. Allora io vi ringrazio, sia avvocato indipendente sia Silvestra Raimondo, sindaco di Aci Castello, che invece ha detto c'è un modulo che insomma, chi abita ad Aci Castello e chi ha pagato sto canone noi glielo restituiamo, basta fare richiesta e i cittadini di Aci Castello sapranno e sanno come fare. Le 8:48, allora ogni anno si svelano i redditi di parlamentari. Mariolina Sesto del Sole 24 Ore, buongiorno, ciao Mariolina. Buongiorno. Siamo anche un po' guardoni, no? Si fa questa cosa, dai, si fa anche questa cosa un po' per curiosità, per vedere quanto guadagnano i politici. Tu hai passato ieri la giornata ovviamente tra Camera e Senato, il più ricco di tutti è Berlusconi, ma questa forse non è... La notizia vera è che rispetto all'anno prima ha perso moltissimo, no? Esatto, ha perso il 90%, almeno stando alla sua dichiarazione dei redditi 2007. Accidenti, il 90%, qualcuno addirittura oggi titolava il povero Berlusconi, ma rimane comunque quello che dichiara di più, 14.500.000 del governo, seguito da Giulio Tremonti a 4.500.000, Gianni Letta 1.154.000 euro ovviamente. Che cosa ha colpito, Mariolina? Per esempio ne scrivi anche con Davide Colombo sul Sole 24 Ore, cos'è che ha più colpito secondo te di cifra? Cosa possiamo dire di anche le curiosità, insomma, che dei redditi? Beh sì, guarda, ieri noi abbiamo passato tutto il pomeriggio praticamente tra Camera e Senato a guardare questi faldoni interminabili e quello che colpisce francamente è che il Parlamento è un po' uno specchio fedele dell'Italia, nel senso che al di là della più o meno ricchezza di deputati e senatori, colpisce il fatto che il modo di investire questi soldi è molto simile a quello della gran parte degli italiani, cioè poco rischio, investimenti diciamo del tutto sicuri. Vengono preferiti i fabbricati e i terreni, tantissimi sono appunto i senatori e i deputati che hanno comprato in proprietà o in comproprietà case e terreni, e pochi quelli che hanno preferito invece investire in borsa, e chi l'ha fatto si è tenuto diciamo sicuro sui titoli italiani diciamo più solidi, come possono essere le azioni Enel piuttosto che Finmeccanica o Telecom Italia. Tra l'altro tu hai detto fabbricati e terreni, a questo proposito, manco a farlo apposta, giuro che è un assist non voluto, voglio salutare il senatore Rosario Giorgio Costa del Popolo della Libertà, è caduta la linea ma adesso lo recuperiamo. Senatore Costa, 22 fabbricati e 4 terreni, a cui si aggiungono 24 fabbricati e 19 terreni della moglie, insomma 24 più 22 fabbricati fa 46. Il mattone tira tantissimo, bisogna dire. Mariolina, intanto vediamo se recuperiamo il senatore Costa. Il mattone, no? Anche. Il mattone. E diciamo che l'onorevole Costa non è il primo in classifica, perché il sottosegretario Cosentino risulta essere il primo nella classifica degli immobili, 84 addirittura. Colpisce molto nello scorrere questi faldoni, la casa è assolutamente il bene rifugio preferito dai nostri parlamentari, anche da quelli che poi alla fine nella dichiarazione dei redditi hanno dichiarato pochissimo, c'è cioè addirittura chi guadagna solo 2.000 euro in un anno. C'è anche meno, Massimo Nicolucci, Popolo della Libertà, 215 euro. In un solo anno. Sembra quasi che l'elezione a parlamentare sia stato per lui una manna dal cielo, prima non guadagnava la lotteria. Niente. Il più ricco al Senato invece è il professor Veronesi, Umberto Veronesi, noto oncologo, credo sul milione rotti, adesso me lo sono perso, ma insomma poi sui giornali li trovate tutti. C'è anche il ministro degli esteri Frattini, che ha dichiarato zero, ma perché allora era alla Commissione europea, no? È così, esatto, quindi esatto. Dichiarava infatti, Bruxelles. Alcuni di questi nullatenenti spiegano che sì, in realtà nel 2007 pagavano le tasse in un altro paese. No, certo. Quindi anche Barbara Contini a zero, ma forse era in Darfur quei momenti. Comunque, visto che abbiamo ripristinato la linea, non so se è ballerina, senatore Costa c'è? Sì, pronto, eccoci, sì, eccoci. Buona giornata. Buona giornata a lei. Per il vostro lavoro, per il vostro giornale, per la vostra radio. Grazie. Senta, 22 fabbricati e 4 terreni, più 24 della moglie, 19 terreni. Si sta bene in provincia di Lecce, no? Lei deve tener conto che il Times di Londra reclamizza il Salento come il sito dove gli immobili costano meno che in ogni parte d'Europa, tant'è che incoraggia all'acquisto. Non è casuale che da terre lontane vengano per comprare in questo territorio. Accidenti, ma costruire costa pure di meno. 46 sono tanti, però. E quando dice fabbricati, ha anche contemplato il numero delle cantinette, il numero dei garage, che sono sì immobiliare a sé stanti da un punto di vista catastale, ma non sono soluzioni né abitative né negozi. Ah, per carità. Tuttavia, tenga conto che io appartengo alla categoria dei laboriosi, laboriosi in politica e laboriosi nella lavorativa, che per quanto mi riguarda è quella. Ma non si senta sotto esame, senatore Costa, è tutto trasparente. Per fini pedagogici, sì, fare questa indicazione. Se lei trova i giornali della fine della legislatura, di tutte le legislature nelle quali io sono stato presente, troverà che, bontà vostra, i giornalisti mi hanno catalogato tra i più laboriosi senatori. Questa laboriosità, fa piacere, posso assicurare, no, mi hanno messo sempre al primo e al secondo posto, l'ultima volta al primo posto tra i parlamentari dell'opposizione per laboriosità. La laboriosità ha sempre spiegato efficacia anche un parte dell'attività lavorativa, ed è per questo che ai più giovani dico, per la via del lavoro e per la tecnica della formica e non anche della cicala che accantona e non spende, nel tempo si può riuscire ad avere. Ma lei parla come un libro stampato e poi consiglia anche ai giovani: investite nel mattone. Sono un educatore, perché sono presidente dell'ordine dei dottori commercialisti. E lei, tra l'altro, voglio dire, e lei consiglia anche a questo punto: investite nel mattone e investite nel Salento, perché costano poco. Non lo dico io, lo dice il Times. Venerdì, quando esce l'inserto, dice il luogo dove si può comprare a costi più bassi. Non a caso tutti quei cespiti che lei dice, alcuni dei quali sono garage, cantinette e piccole unità, messi insieme valgono poco più di quanto possono valere due appartamenti nella città di Roma. Non è sotto esame, è stato anche gentile. Giornale economico. Certo, ma mi spiace tra l'altro che il cellulare purtroppo abbia preso, non preso, caduto, perché l'avrei tenuto un po' di più, senatore, ma purtroppo devo terminare qui. E allora investite tutti nel Salento, che il Times di Londra lo consiglia, il giornale Times. Grazie anche a Mariolina Sesto del Sole 24 Ore. Ci fermiamo tra poco, il piano casa se ne parla con Giuliano Ferrara, parliamo con l'elefante, noi ci ritroviamo domattina.